2024 2024 di Enrico Pagliarini. Ed eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di 2024. Benvenuti o bentornati. Il nostro indirizzo di posta elettronica per comunicare con noi è 2024, quindi 2024@radio24.it. Dunque, siamo ancora in attesa dei decreti attuativi del piano banda ultralarga del governo, piano strategico approvato, ma poi bisogna tradurre tutto questo in leggi. Allora, nel frattempo si continua a trattare e discutere sul parallelo dossier per creare una società della rete a prevalente controllo pubblico o comunque partecipata da più soggetti, che dovrebbe essere la protagonista della posa della fibra ottica nel nostro paese. Dovrebbe, perché dipende dagli accordi. Naturalmente una forma societaria, quella che si sta, che molti stanno ipotizzando, che dovrebbe garantire la concorrenza di tutti gli operatori e quindi garantire la competizione nel medio-lungo periodo, ma non è detto che poi tutto questo accada, vedremo. Tutto gira attorno a MetroWeb. In campo, e questa è una novità degli ultimi giorni, dovrebbe scendere anche l'Enel, mettendo a disposizione le proprie infrastrutture come cavidotti, cabine di distribuzione, tralicci di trasmissione su cui mettere fibra o apparati wireless. Anche Terna, che è la società che gestisce la rete primaria dell'energia elettrica in Italia, anche Terna sta valutando come poter entrare in campo. Questo è sicuramente molto interessante. Vedremo nelle prossime settimane quello che succederà. Ma a che cosa serve la banda? Perché molti ascoltatori ci scrivono e dicono: vabbè, ma io ho una buona DSL, ne ho a sufficienza. Allora, naturalmente molta della banda di cui stiamo parlando, più che servire oggi, servirà nei prossimi anni, soprattutto quando parliamo di velocità che superano i 50-100 megabit, ma non fra 10 anni, non fra 5 anni, tra pochissimi anni, e soprattutto servono già oggi alle aziende. Allora, perché abbiamo bisogno di fibra ottica, banda larga, per farci che cosa? Iniziamo questa settimana una serie di interviste alle aziende, chiamiamole, che sono entrate nell'era del gigabit. Ci sono studi negli Stati Uniti, ne ho letto uno recentemente del Pew Institute, che parla proprio della gigabit era. Abbiamo parlato con Alessandro Togna, che è responsabile sistemi, reti e sicurezza dell'Università Telematica Guglielmo Marconi. In quanto Università Telematica, noi eroghiamo tutti i corsi online. Quindi la nostra banda è fondamentale, quella interna tra le sedi, per lo scambio di questi contenuti multimediali in fase di lavorazione, mentre è fondamentale con lo studente per avere una qualità eccellente dell'audio e del video e per permettere allo studente una fruizione continuativa delle lezioni senza interruzioni e senza problemi. Quindi più banda c'è, in questo caso nella nostra università, e possiamo erogare le lezioni a più studenti in contemporanea. Diciamo che la vostra attività non potrebbe esistere, non poteva esistere quando non c'era disponibilità di banda larga. Esattamente, col modem per esempio era impossibile fruire di una lezione online. Quando parliamo di banda larga, per quanto vi riguarda, di che dimensioni stiamo parlando? Allora, tra le sedi collegamenti a gigabit. Mentre con lo studente il minimo indispensabile è un megabit. Forse un megabit è poco, diciamo, esatto. È per il minimo indispensabile. Esatto, è proprio il minimo indispensabile per non avere un video pessimo, insomma. Però ovviamente all'incremento della banda potremo, per esempio adesso siamo limitati in parte dalla banda disponibile in Italia perché non possiamo aumentare troppo il livello delle lezioni, la qualità. Perché altrimenti lo studente potrebbe avere dei problemi di fruizione. Sì, parliamo di qualità video. Sì, certo. Qualità video. Quindi non potete fare lezioni in alta definizione? No, purtroppo ancora no, noi ci stiamo già preparando, ma fondamentalmente dipende anche e soprattutto dall'infrastruttura dello studente. Sì. Quando parliamo di collegamenti gigabit per le vostre sedi, parliamo di un gigabit? Sì, per adesso siamo a un gigabit anche perché le sedi sono relativamente vicine, quindi non abbiamo necessità superiori e soprattutto abbiamo una divisione della banda, nel senso che la tot banda viene usata per alcune cose, altre, quindi si autolimita il sistema. Senta, a quanti studenti erogate il servizio? Dunque, gli studenti dell'università sono circa 12.000. Contemporaneamente in fruizione ne abbiamo 250-300. Allora, tenete conto che il settore dell'educazione online è uno dei settori su cui puntano molti stati, non solo per l'istruzione universitaria o altro tipo di istruzione, ma anche per la formazione a distanza, per, che ne so, aggiornamento nel mondo delle aziende. Insomma, questo è un settore in evoluzione, in trasformazione. Molti corsi di lingua oggi avvengono online e chiaramente, come dicevamo poco fa, più banda c'è, maggiore è la qualità anche video e quindi maggiore è la partecipazione, il coinvolgimento di chi ascolta e segue queste lezioni. Ma naturalmente questo è un esempio, continueremo a farne anche nelle prossime settimane, entrando anche in aziende tradizionali che grazie alla banda e al gigabit, ma ovviamente questi sono esempi, ma esempi molto concreti, dicevo, entreremo anche nelle aziende tradizionali che grazie alla banda larga trasformano il proprio business. Potete naturalmente anche voi fare le segnalazioni scrivendo a 2024@radio24.it. Una delle notizie più importanti della settimana riguarda Google. La Commissione europea ha formalizzato l'accusa di abuso di posizione dominante perché Google favorirebbe sistematicamente i propri servizi di comparazione per gli acquisti online rispetto a quelli dei concorrenti. Se uno vuole fare un acquisto online e va sul motore di ricerca, trova tra i risultati dei comparatori per acquisti online. Allora, l'accusa è proprio questa, di favorire i propri servizi rispetto ad altri. Del resto, l'indagine dell'Unione Europea è partita proprio su segnalazione di un gruppo di aziende che si sono associate in un'associazione che si chiama Fair Search. Su internet ci sono moltissime notizie, su fairsearch.org trovate un sacco di informazioni su questo caso. Allora, Google ha 10 settimane per rispondere. L'Unione Europea ha annunciato anche un'indagine su Android per verificare se esistono accordi che impongono ai produttori di smartphone Android l'installazione in fabbrica delle app e servizi di Google. Naturalmente anche in questo caso, vista la forza di Google, potrebbe esserci, c'è sicuramente posizione dominante, ma il problema è l'abuso della posizione dominante. Questo è un tema molto interessante e vi invitiamo ad approfondirlo online anche sul Sole 24 Ore. Adesso le nostre notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. Iniziamo dalla storia, perché per la prima volta nella storia della musica i ricavi da copie digitali liquide, quindi parliamo di streaming e download, hanno superato quelli realizzati dai supporti fisici. Lo si legge nel Digital Music Report pubblicato dalla International Federation of the Phonographic Industry, cioè l'organizzazione internazionale che rappresenta la musica, l'industria musicale. C'è un rapporto disponibile online proprio sul sito della ifpi.org che potete leggere, molto molto molto interessante, non è corto, però è sicuramente una bella lettura se siete anche appassionati o vi interessa il mondo della musica. Digital News. Apple ha acquistato per appena 20 milioni di dollari, quindi una cifra tutto sommato abbastanza bassa, l'israeliana Lynx Imaging, che produce sensori per fotocamere da smartphone particolarmente sofisticati e compatti. La specialità di questi sensori è quella di catturare la profondità della scena ripresa quando si fa una fotografia e che permette, ad esempio, la messa a fuoco di uno sfondo anche dopo aver scattato la foto o di un soggetto che non era stato messo a fuoco subito. Molto molto interessante. Ci sono altre tecnologie che permettono di fare questo già oggi disponibili sugli smartphone, ma c'è chi pensa che poi nei prossimi iPhone verrà utilizzata la tecnologia della Lynx. Digital News. È stato fatto un accordo tra la Joe Bone e l'American Express. Il nuovo App 4, che è uno dei braccialetti fitness prodotti dall'azienda americana, dalla Joe Bone, ha un chip NFC integrato che permette di pagare sui POS abilitati ai clienti di American Express. Uno dei tanti esempi della possibilità di fare micropagamenti con uno strumento così facile da indossare come un braccialetto per il fitness. Digital News. Vodafone ha cominciato a vendere online in Italia Flume, un piccolo etilometro da accoppiare ad uno smartphone con sistema operativo o Windows Phone o iOS o Android. Costa 49 euro, è un prodotto italiano, si dice Flume, è scritto Flome con due O, Flome, è un etilometro da smartphone, interessante. Digital News. Parliamo di Nokia, che dopo aver venduto gli smartphone a Microsoft si occupa oggi prevalentemente di reti di telefonia mobile, cioè delle infrastrutture, quindi delle antenne di tutti gli apparati. Ha annunciato in settimana l'acquisizione di Alcatel-Lucent. La società continuerà ad avere sede in Finlandia, si chiamerà Nokia, quindi è Nokia che acquista Alcatel-Lucent. La competizione nel settore è di fatto divisa fra tre grandi aziende: Ericsson, Nokia e Huawei, la cinese Huawei, e sicuramente questa operazione servirà per contendere la crescita forte dei cinesi, non c'è solo Huawei ma anche ZTE. Digital News. Sky e Telecom hanno presentato la nuova offerta Team Sky, l'abbiamo anticipato la scorsa settimana, si potranno avere i pacchetti televisivi di Sky senza parabola dove la rete Telecom supporta una velocità di almeno 20 megabit. Quindi anche alcune ADSL, non solo dove c'è la fibra fino al cabinet di strada. Telecom ha detto di essere al lavoro con Mediaset per un'offerta commerciale congiunta che dovrebbe partire già a settembre. La notizia con cui abbiamo iniziato le nostre Digital News si riferiva al 2014, quindi per la prima volta nel 2014 i ricavi della musica liquida hanno superato quelli realizzati dai supporti fisici. Un dato che segna un po' i tempi che stiamo vivendo e che commentiamo sempre a 2024. Abbiamo parlato più volte di streaming musicale. Più tardi parleremo di Internet of Things con l'esempio di un bottone, chiamiamolo così, per ordinare la pizza. E poi parleremo e faremo la prova alla radio di Skype Translator, quindi il nuovo servizio di Skype che permette di tradurre dall'italiano all'inglese, dallo spagnolo al cinese, o combinando queste quattro lingue. Insomma, vi faremo sentire una prova tra poco. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo tra un minuto. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, poco fa abbiamo parlato dell'acquisto da parte di Nokia di Alcatel-Lucent. È comunque interessante che in questo settore tecnologico delle reti l'Europa sia ancora molto forte, perché il numero uno del settore è Ericsson e questa acquisizione di Nokia dovrebbe creare il secondo gruppo. Certo è che i cinesi stanno crescendo molto, di fatto gli americani sono presenti soprattutto in alcune parti, Cisco naturalmente è un player molto importante nelle reti, ma nel settore wireless gli europei sono i numeri uno. L'operazione è dettata sostanzialmente da alcune dinamiche di mercato tipiche ma anche di altri mercati. Se voi pensate a quello che pagate con il vostro piano dati o il piano voce, potete vedere che negli ultimi anni, soprattutto sulla voce, i costi si sono ridotti molto e la marginalità degli operatori è diminuita, degli operatori di telecomunicazioni, e ovviamente tutto ciò si ribalta su chi fornisce l'infrastruttura. Quindi la marginalità decresce e ovviamente bisogna fare economie di scala sempre più, creare aziende sempre più grandi per competere sui mercati internazionali. Anche in questo settore, chi l'abbiamo detto anche la scorsa settimana parlando degli smartphone, anche in questo settore stiamo parlando di antenne e tutte le infrastrutture tecnologiche che tengono in piedi le reti di telecomunicazioni, anche in questo settore chi produce hardware a margini sempre più bassi o comunque sempre più difficili da contenere nella discesa, e allora bisogna spostarsi sui servizi. Non è un caso che soprattutto Ericsson, ma non solo Ericsson, ma diciamo che in questo settore sicuramente è l'azienda numero uno, ha spinto moltissimo negli ultimi anni nella gestione delle reti, e quindi gli operatori di telecomunicazioni affidano a queste società la gestione della rete, anche magari dove ci sono apparati di altri produttori, di altri brand. Questo è un servizio, e naturalmente sui servizi si guadagna di più rispetto alla semplice produzione e vendita dell'hardware. Comunque anche questo è un mercato molto interessante su cui potremmo spendere ore e ore e ore con molti esperti, anche se alcuni non parlano perché ne sanno troppo e non possono parlare. Dunque adesso ci tuffiamo in una tecnologia che riguarda l'intelligenza artificiale. Le macchine oramai sanno tradurre, lo fanno online. Una delle novità degli ultimi tempi è un plugin per Skype. Tutti noi conosciamo, e magari molti dei nostri ascoltatori utilizzano Skype. Allora, un plugin che traduce, per il momento traduce da quattro lingue. L'italiano fortunatamente è una delle prime lingue che è stata inserita: inglese, italiano, spagnolo e cinese. Allora, per fare la prova è necessario che chi chiama abbia Windows 8.1 e versioni successive. Installi questo plugin per Skype, però poi potete chiamare un altro utente Skype, e succede quello che vi facciamo ascoltare nella nostra chiacchierata con il nostro interlocutore Ignacio, uno spagnolo che ha parlato con noi in inglese. Hello Enrico, very nice to meet you. Buongiorno Ignacio, ciao. Come va? Recupero, sono lieto di conoscerti. I'm doing very well, thank you. How are you? E poi, beh, grazie. Come stai? Sto bene, mi verrebbe da rispondere subito, ma devo aspettare la traduzione. I'm fine. I would respond immediately to the shore for the translation. It is better if we wait for the translator to translate what you're saying. È meglio se aspettiamo il traduttore per tradurre quello che dici. Infatti, bisogna abituarsi un pochettino e poi dopo dopo capisce come deve fare. Mm-hmm. In fact, you have to get used to a little bit, and then after one group understands how to do. That's right, yes. Esatto, sì. Allora, facciamo due chiacchiere per fare questo test di traduzione. Prima di tutto ti chiedo dove ti trovi, dove abiti, dove lavori. Now, let's talk to make this education head to is first of all, I ask you where you are, where you live, where you work. Yep, right now I'm in Madrid, the capital of Spain. In questo momento, sono a Madrid, la capitale della Spagna. I work for Microsoft through a internet service provider. Io lavoro per Microsoft attraverso un fornitore di servizi internet. Gli Stati Uniti. I've been working on this project since the month of May. Ho lavorato su questo progetto sembra il mese di maggio. And the technology has been improving a lot. E la tecnologia ha migliorato molto. La tecnologia è migliorata molto, ci diceva Ignacio, il nostro corrispondente per fare questo test, è migliorata molto, e pensate che siamo solo agli inizi dello sviluppo di queste tecnologie, quindi potete immaginare che fra 1, 2, 3 anni, beh, questo sarà più che un esperimento, una normalità. Vi facciamo sentire un altro pezzetto in cui Ignacio ci ha raccontato qualcosa sulle sue vacanze. Devo anche dire che è stato molto più bravo il sistema a tradurre quando io parlavo in italiano e la traduzione avveniva in inglese rispetto alla traduzione dall'inglese all'italiano. Ma insomma, tutto sommato, devo dire che la cosa importante è che se due interlocutori parlano e non comprendono l'uno la lingua dell'altro, con questo sistema si possono comprendere, o comunque comprendono l'80-90% di quello che si dicono. Esistono servizi analoghi, il più famoso è Google Translator, che funziona sullo smartphone, quindi bisogna essere due persone vicine usando lo smartphone come traduttore. Il principio è lo stesso, la tecnologia è molto simile. Sentiamo un altro pezzetto della nostra chiacchierata con Ignacio. Of course, I could talk to you about my trip to Santa Barbara in California. Potrei parlare del mio viaggio a Santa Barbara, California. I went for a language course in a agency that does these courses for foreign people to learn English. Sono andato per un corso di lingua in un'agenzia del motore che quindi questi corsi per stranieri per imparare l'inglese. It was a very good experience for me because I learned a lot of this beautiful language. È stata un'esperienza molto buona per me perché ho imparato molto di questa bella lingua. I also went to San Francisco. Sono andato anche a San Francisco. We rented a car and we went through the road that goes along the coast. Abbiamo noleggiato una macchina e siamo andati alla strada che percorre la costa. We stopped at a winery and we tried some wines. Iniziamo a cantina in cui abbiamo provato alcuni vini. We tried some wines. Abbiamo provato qualche wines. In questo caso non ha tradotto bene, non ha capito wines che vuol dire vino. Mm-hmm. But in this case has not translated well, did not understand wigs that means wine. Yeah, right. Sì, giusto. As you know, American wine is not as good as Spanish wine. E il vino americano non è buono come vino spagnolo. Quindi la traduzione ha tenuto conto di questa cosa. So the translation took account of this thing. Secondo me è affascinante questa tecnologia, intelligenza artificiale. Avete sentito che a proposito di contesti, è molto importante il contesto, la macchina subito, lui stava parlando di un viaggio sulla strada che costeggia l'oceano e ha parlato, ci siamo fermati in una cantina a bere del vino e lì non ha capito, prima ha detto vento, poi ha detto wine, quindi non ha riuscito a tradurlo, e poi quando ha detto Italia e Spagna e lì ha capito e ha tradotto giustamente vino, perché evidentemente il contesto l'ha aiutato. Comunque devo dire che considerando che siamo solo agli inizi di queste tecnologie e che nel giro di pochi anni tutto maturerà e funzionerà senza problemi, devo dire che insomma, è molto affascinante ed è incredibile. Provate se avete occasione. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, tra poco parliamo di Internet of Things, parleremo anche di mappe. Le mappe, la rappresentazione dei dati sulle mappe diventa sempre più importante. C'è anche un concetto che sta nascendo che si chiama Location Intelligence. A tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Bentornati, riprendiamo. Io sono Enrico Pagliarini, mi trovate su Facebook, Twitter e anche a 2024 e radio24.it. Prima di proseguire e parlare di Internet of Things, una notizia che riguarda Vodafone, che dopo Tiscali e Fastweb ha lanciato un servizio di condivisione del proprio hotspot Wi-Fi, quello che si ha in casa. Ma la copertura di Vodafone è su tutto il territorio nazionale e anche all'estero. Allora, ci sono 1 milione di hotspot in Italia, 15 milioni di hotspot presenti in 15 paesi in cui questo servizio è attivo. È stato realizzato in collaborazione con FON, i primi a credere in questa dinamica della condivisione del Wi-Fi. Allora, in pratica il proprio hotspot di casa viene messo a disposizione degli altri clienti, in questo caso i clienti Vodafone, e viene riservata agli altri clienti solo la porzione di banda che non viene utilizzata. Quindi se stiamo utilizzando tutta la banda, quella viene riservata a noi. Però se magari, che ne so, stiamo leggendo una pagina web oppure utilizziamo poca banda, quello che rimane viene messo in condivisione. Possiamo anche si può anche disattivare questo servizio, però naturalmente se noi mettiamo in condivisione, lasciamo questa opzione, quando ci spostiamo Quindi se andiamo in un'altra zona della città o in un'altra città, anche all'estero, possiamo usare la rete wifi degli altri clienti Vodafone. Quindi è una condivisione in una community che si scambia la rete wifi. Ci sono anche degli ovvi vantaggi. Se si è all'estero non c'è roaming, però un grosso vantaggio anche per la rete è che si scarica di traffico la rete di telefonia mobile e si utilizza il wifi, quindi la rete di telefonia fissa, la rete dati fissa. Comunque sicuramente una cosa molto interessante. Ci sono anche altri operatori che l'hanno fatto, ma in scala molto più ridotta. In questo caso invece parliamo di 1 milione di hotspot in Italia, 15 milioni in questi paesi dove il servizio è disponibile. Parliamo di Internet of Things con un esempio che parte dalle consegne a domicilio. Benvenuto a Carlo Brianza, benvenuto a 2024. Grazie, buongiorno. Carlo Brianza è il fondatore della Comanda. Voi avete realizzato un oggetto che fa parte della Internet degli oggetti. Descrivici che cos'è questo, chiamiamolo bottone. Lui si chiama Click and Pizza, il sì. Primo che abbiamo lanciato. È un tastone magico, noi chiamiamo il bottone magico, sì. Magnetico. Lo attacco sul mio frigorifero. Serve per ordinare il mio menù pizza preferito con un solo click. Io arrivo a casa tardi la sera, fuori diluvia. Ho scordato di fare la spesa, mia moglie si è arrabbiata, ho i figli che sono nervosi perché hanno fame, cosa faccio? Pam, schiaccio il mio bel click in pizza e viene ordinato l'ordine, quello della mia famiglia, quindi la mia pizza, quella di mia moglie, quella dei miei bambini, quindi la famiglia sarà felice e noi possiamo apparecchiare la tavola, quindi problema risolto. Dunque questo è un oggetto, in questo caso è rotondo, fatto sì. Sembra proprio un tastone grosso, di cos'è, una decina di centimetri, sì, 9 centimetri. Di diametro. Tu hai detto lo attacco al frigorifero, sì. In realtà lo posso attaccare dove voglio, sì. Come si collega? Si collega a internet? Lui giusto? Si collega a internet direttamente, hai un modulo wifi all'interno, quindi non ha bisogno dello smartphone. Lui si collega al mio router di casa e riceve quella che è sia la mia personalizzazione, perché io lo istruisco, gli dico questo è il mio menù preferito di pizze. Questi sono gli altri menu che voglio ordinare, quindi non ho solo un'unica scelta, quindi non è un bottone sciocco come alcuni bottoni che si vedono in commercio dove non posso scegliere. Qui posso scegliere tra diversi menu che ho già composto che sono ricorrenti oppure fare un ordine nuovo alla carta, cioè, di volta in volta. Posso scegliere, lo diciamo subito agli ascoltatori, non schiacciando solo ma girando la ghiera, sì. Cioè girando proprio il bottone, io lo giro, delle sì. Scelte, quindi insomma posso fare alcune cose. Però effettivamente uno potrebbe domandarsi ma come, con le app o con internet, su un sito internet io posso fare molte cose. Posso, che ne so, a proposito di menu della pizza, posso scegliere un sacco di cose, posso mettere dentro insomma con molta facilità. Qui abbiamo uno strumento solo, un tasto. Sì. Non è un po' troppo limitativo? No, anzi, c'è vita oltre lo smartphone. Ecco, allora, lo smartphone è uno strumento perfetto in mobilità. A noi piace dire che è come un coltellino svizzero. Se sono in campeggio io apro la mia bottiglia di vino col coltellino svizzero, se sono a casa uso il cavatappi, a casa uso le forbici, coltelli, cacciaviti. Allora, non è detto che uno smartphone sia l'interfaccia, lo strumento più adatto quando sono in altri contesti diversi dalla mobilità. Questo è uno, per esempio. Io ho il mio tastone sul frigorifero, quindi sono in cucina, sto pensando a cosa fare per cena, lo vedo, mi viene istantaneamente voglia di mangiare la pizza, e in un click lo faccio in 2 semplici passaggi. Se è un'applicazione sullo smartphone potrebbe non venirmi in mente, o potrebbe anche richiedere troppo tempo, magari dopo tutto il giorno in cui sto usando il telefono non ho più voglia, sono esaurito. Tu dici l'istantaneità è la comodità, sì. Voi avete, tu hai citato la pizza non a caso, perché questo prodotto non esiste ancora in commercio, ma lo sarà presto. Sì, noi partiremo quest'estate in Canada con Pizza Hut, che è una grande catena di pizzerie, è la più grande del mondo, e quello lì sarà il primo mercato dove si troverà il Click and Pizza. Poi andremo a estenderlo. In quel caso facciamo uno scenario, poi commercialmente parlando gli scenari possono trasformarsi e essere i più vari. Come funziona? Quindi il cliente che vuole mettersi in casa questo sì. Tasto. Sì, mi viene proposto dal mio negoziante, quindi dal mio pizzaiolo, quindi al negozio Pizza Hut in questo caso. Mi porto a casa la scatolina, devo fare 2 semplici passaggi per registrarmi. Prima vado su internet, registro il dispositivo che ha un numero seriale unico, i miei dati, dove abito, così sanno dove portarmi la pizza, e dico quali sono i miei menu preferiti, quindi cosa voglio che succeda quando lo schiaccio. Poi configuro il wifi, basta, fatto, schiaccio e pam, Sì. Costerà? Lo deciderà il cliente, quindi siccome è un prodotto che poi sarà pizzata a commercializzare, sarà pizzata a dire quanto lo vorrà far pagare ai propri clienti. E voi pensate in futuro, o già magari state pensando, di vendere al cliente finale questo servizio, o non ha senso venderlo direttamente? Cioè lo deve vendere chi, che ne so, o consegna la pizza o fa qualsiasi altra cosa? Poi ti farò delle domande anche per capire che cos'altro si può fare. Ma sostanzialmente in questo momento no, perché noi vogliamo fare in modo di dare ai ristoranti, quindi alle catene, uno strumento ulteriore per creare un ingaggio con i propri clienti, quindi dargli modo di ordinare quella pizza che vogliono in maniera più semplice e fare in modo anche di comunicare. E siccome il Click and Pizza ha un display, allora il mio pizzaiolo mi può mandare un messaggio, che a differenza dei messaggi che ricevo tradizionalmente, tipo gli SMS e le newsletter, non è fastidioso, perché intanto lo vedo quando al posto giusto, al momento giusto. Se sono in cucina, sto pensando alla mia cena, vedo un messaggio che più delle volte è una promozione: c'è una pizza nuova con lo sconto, è il tuo compleanno, ti offriamo una pizza, prendine 4, eccetera. Allora lì sono predisposto, leggo il messaggio, lo accetto e confermo subito. Che cos'altro ci si potrebbe fare, oltre alle pizze? Ma allora, qualsiasi cosa che richieda una prenotazione oppure un ordine rapido. Quindi io so già quella cosa che voglio, non ho tempo da perdere, rapidissimo, tac, schiaccio il tasto e lo ordino. Quindi negli uffici lo vedrei per chiamare i taxi, per chiamare i corrieri, per spedire i pacchi, per esempio. Quindi non devo neanche distrarmi dal quello che sto facendo. Se sono in ufficio, sto lavorando. È una specie di telecomando a un tasto. È un telecomando a un tasto, che però mi permette di avere delle scelte, quindi non è limitato a un tasto solo, quindi posso andare a customizzare. Perché anche nel caso che abbiamo citato, quello della pizza, io posso, facendo tac, un click solo, ordino il mio menu classico, che posso comporre una volta per tutte. Sì. Però posso anche dire: no, aspetta, che stavolta invece di quella bibita voglio quell'altra. Assolutamente posso scegliere. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Perché i pulsanti sciocchi, i dumb button, come dicono in inglese, i pulsanti sciocchi fanno una sola cosa. I pulsanti smart, quelli, i pulsanti furbi, ti permettono di fare una selezione. Ecco, noi diciamo che il click in pizza è un pulsante magico, perché ti fa scegliere e in più comunica con te. Noi stiamo parlando di Internet of Things, perché? Ci spieghi? Sono oggetti collegati a Internet. E questa è una delle, possibilità. Oggi la tecnologia ci consente di avere, a dei costi accettabili, sia a livello di ricerca e sviluppo sia a livello per i clienti, degli oggetti connessi. A questo punto, nel momento in cui posso connettere un oggetto, posso decidere di fare qualsiasi cosa. Un esempio classico è l'innaffiapiante del balcone, che si collega alle previsioni del tempo. Allora, se le previsioni danno pioggia, non innaffia; se le previsioni danno il sole, innaffia. Ok, questo è un esempio. Il nostro Click and Pizza è un altro esempio. Quindi, a seconda dell'esperienza che vogliamo portare al cliente, andiamo a creare l'oggetto fatto per lui. Quindi il punto di ingresso è sempre l'utilizzatore e l'esperienza che gli si vuole offrire. Esiste anche una versione che si collega alla rete di telefonia mobile, quindi non in wifi, ma... Sì, è in programma, nel senso ce l'abbiamo in roadmap nei mercati dove non c'è il wifi. In realtà poi il canale di comunicazione dove è accessorio, l'importante è che basta. Esatto, però il canale è accessorio, non importa come si collega, l'importante è che lui si colleghi rapidamente e senza dover rimbalzare su uno smartphone. Sì. Dunque, voi partite dal Canada. Sì. Questo perché pensi che ci siano dei paesi dove questo tipo di esperienza sia più comune rispetto all'Italia? Beh, nel Nord America gli ordini a domicilio sono molto più alti. Sono una roba seria. In Canada è un motivo ambientale: d'inverno ci sono 20 gradi sotto zero, torno a casa, io non esco più, portamela a casa la pizza. In certe città americane i posti sono lontani, quindi dovrei prendere la macchina, che non è detto che uno abbia voglia. E comunque di fatto è molto più nella loro cultura. Quindi la parte di delivery, considera che negli Stati Uniti il 36% delle pizze prodotte, che sono 3 miliardi, viene consegnato a domicilio. Quindi 1 miliardo di pizze all'anno viene consegnato a domicilio. In Canada di più, cioè è meno la numerica perché ci sono meno abitanti, ma lì il 60% viene consegnato a domicilio, proprio per motivi ambientali. Voi vendete solo il pezzo di ferro? Noi vendiamo in questo caso di plastica. Di plastica. No, tutto il servizio. Quindi c'è un dispositivo, in realtà c'è un server che ha tutta l'intelligenza, gestisce la comunicazione, gestisce i dati e si interfaccia con poi tutti i vari clienti, di modo che io so che quando schiaccio il tasto effettivamente mi arriverà questo strumento. Ha un display. Sì. Io potrei infilarci della pubblicità anche di altri. Non l'avete ancora previsto? Tecnicamente si può fare. Cioè, se arriva, diciamo, il tasto, se vendete questo a Google, Google vuole infilarci poi tutta la pubblicità. Allora, sì, è un messaggio per l'Harry Page, www.lacomanda.it, eccoci qui, ci scrivete, siamo ben disposti a parlarne. Teoricamente sì, non vogliamo dare fastidio alle persone. Ok, quindi lo strumento si presta, è un canale che non dà fastidio per definizione, allo stesso tempo per mantenerne l'efficacia e la familiarità cerchiamo di non renderlo fastidioso. Sì, tu hai detto il prezzo lo decide il vostro cliente, sì. Che quindi potrebbe addirittura regalarlo, o pensi che non succederà? Ma guarda, io è un oggetto di valore, quindi io sono abbastanza contrario a regalarlo. Io sono per venderlo, è giusto che venga pagata una cifra, che è la cifra giusta, ma di fatto è uno strumento che poi ti abilita dei servizi, nel senso che ha già la comodità di poterlo ordinare con un click. Poi verranno messi dei servizi premium, degli sconti speciali, il fatto poi di ricevere delle promozioni, quindi alla fine si traduce in un risparmio. Senti, dal punto di vista tecnico non abbiamo detto una cosa importante, visto che oramai la durata delle batterie è uno dei grandi temi di questi anni. Questo strumento funziona a batteria, immagino? Lui ha una batteria ricaricabile, ha un connettore micro USB, quindi lo ricarico con i connettori come lo smartphone. Quanto dura questa batteria? La batteria dura dai 10 giorni al mese, a seconda di quante volte si sincronizza. Se tutti i giorni ordino la pizza? Se io tutti i giorni ordino la pizza magari durerà più 10 giorni. Se la ordino magari una volta ogni 2-3 giorni chiaramente si allunga. Noi offriamo a disposizione anche un supporto metallico. Se io il click and pizza non lo voglio mettere sul frigo o il frigorifero incassato, lo metto sul supporto metallico. Allora il supportino ha dietro lo spazio per tenerlo sempre attaccato alla presa, quindi rimane sempre alimentato. In questo caso non si pone il problema. Sì. Ti faccio una domanda sul mondo della... Adesso noi abbiamo citato il caso delle pizzerie, però tu ci hai fatto degli esempi anche di altro genere. Sì. Però mi sembra di capire che il settore della produzione di cibo, del settore gastronomico, sia in trasformazione quello delle consegne a domicilio. Sì. Sia un trend, visto che voi avete una prospettiva mondiale, globale. Sì. Cosa sta succedendo? Ma in generale, come più o meno in tutti i settori, c'è una crescita dell'e-commerce. Ok, quindi grazie anche a internet, tutti quelli che sono gli attori, quindi i ristoranti in questo caso, offrono un servizio, perché alla fine la consegna a domicilio è un servizio, e lì c'è una crescita, e stiamo vedendo una crescita esponenziale favorita anche da aziende che nascono, che offrono questo tipo di servizi per conto delle pizzerie. Quindi io vado su internet, trovo la pizzeria vicina a casa, posso ordinare lì la pizza senza bisogno che la stessa pizzeria si attrezzi. Sì, sì, ci sono degli aggregatori che questi qui servizio. Spingono molto, perché poi fanno molta comunicazione, quindi è sempre più diffuso. Sta entrando sempre più nelle corde probabilmente delle persone la possibilità di sfruttare l'e-commerce, perché ho un servizio nel caso del cibo, perché posso avere un prezzo migliore nel caso di qualsiasi altra cosa. Sì. Senti, se questa cosa, questo oggetto, sì, questo tastone che abbiamo descritto fa di fatto una cosa sola, perché nel caso della pizza serve per ordinare la pizza, se, che ne so, per ordinare il taxi serve per il taxi, possiamo immaginare quindi che nelle nostre case ci siano un sacco di tasti, che ne so, non solo nel frigorifero oppure un po' in giro per la casa per fare varie cose. Ma allora, io schiaccio qua, che devo andare in camera da letto perché devo schiacciare per ordinare, non so. Lì dipende, ci sono aziende che lo fanno, che propongono questo tipo di soluzione. Per come la vediamo noi, non vogliamo riempire le case di tasti, vogliamo magari darne uno o due. Noi abbiamo altri due prodotti, uno è pubblico e serve in realtà per le persone che devono prendere tante medicine ma che non usano lo smartphone, quindi i nonni, no, per intenderci. Sì. Allora è una specie di svegliotto, è sempre un tasto però messo in un oggetto che sembra molto una sveglia. Cioè è già sul mercato? È sul nostro sito, lo vedi, non è ancora sul mercato, è ancora un prototipo. Quando lo sarà? Abbiamo delle previsioni o non ancora? Quando appena un cliente, una grande azienda, decide di portarlo sul mercato. È uno strumento molto utile, sostanzialmente questo. E poi ne avremo uno che serve invece proprio per fare la spesa, quindi un pulsante che ti serve per fare la spesa al supermercato. Ah, e in lì... quel caso come faccio a fare la spesa? Come faccio a scegliere i prodotti? Sorpresa, ancora segreta, lo lanceremo. Siamo riusciti a rendere una realtà che magari è uno sortimento di 5.000 referenze, adesso io non so quanti prodotti ci possono essere in un supermercato, renderlo semplice e poterlo dare all'utente giovane tecnologico e alla persona meno tecnologica, anche alla nonna. Bene, grazie Carlo per essere stato con noi, in bocca al lupo. Crepi, grazie. Allora, vi ricordo che nella nostra versione podcast, questa intervista è in versione integrale, abbiamo chiacchierato molto e allora vi facciamo sentire tutta l'intervista in versione integrale. Non mi sono soffermato molto su alcuni ed ennesimi, direi, dati che sono usciti in settimana, direi un paio di ricerche meritano comunque una citazione. Allora, dati che riguardano la posizione dell'Italia nell'economia digitale. Allora, il primo che cito è un'analisi, una ricerca del World Economic Forum assieme a INSEAD, The Global Information Technology Report 2015, dice che l'Italia è 55esima su 143 paesi. Ci siamo appena un po' ripresi, ma la posizione migliore l'abbiamo avuta nel 2013, eravamo 50esimi, comunque messi male, eh? Non è che se esce una nuova ricerca cambiamo posizione, lì siamo, usiamo poco la tecnologia, le nostre aziende usano poco la tecnologia e quindi sono meno competitive, lo sappiamo benissimo. Altra ricerca che forse meriterà un approfondimento prossimamente, ho letto una ricerca molto interessante di Accenture che ha pubblicato il Digital Density Index. Praticamente siamo nella parte bassa della classifica, anche in quel caso siamo tra gli ultimi paesi su un poco meno di una ventina di paesi che sono stati analizzati. In questo caso viene analizzato questo dato che si chiama la densità digitale, quindi quanto la pubblica amministrazione, le imprese utilizzano internet, tutte le tecnologie, software e hardware digitali per erogare servizi migliori, creare nuovi servizi, cambiare l'organizzazione del lavoro. Adesso parliamo di mappe e delle informazioni che possiamo mettere sulle mappe. Beh, allora, il primo elemento è raccogliere dati. Questo vale un po' per tanti campi. Raccogliere dati è il primo elemento. Se i dati sono dati geografici, beh, meglio metterli sopra ad una mappa. Però su una mappa ci possono stare dati anche non necessariamente geografici, che ne so, l'inquinamento di una città può essere visto su altri tipi di tabelle, la popolazione, la densità della popolazione può anche essere visto su una tabella normale. Se però questi dati io li vado a mettere su una mappa, posso comprendere molto meglio alcune dinamiche, alcuni fenomeni. Allora, partiamo dalla raccolta dei dati. Ho partecipato questa settimana alla conferenza italiana di Esri Italia. Esri è una delle più importanti, direi leader mondiale nelle tecnologie geografiche, nei sistemi geografici per mappe, per interrogarsi sulla importanza dei dati geografici. E ho visto una bellissima automobile piena di sensori tecnologicamente molto avanzati, una automobile come forse molti di voi avranno visto le auto di Google che mappano e fanno fotografie. Ecco, quelle sono auto poco sofisticate, diciamo così. Quella che ho visto era un'auto molto sofisticata, molto più sofisticata. Ne ho parlato con Giovanni Manta, che è il presidente di Gemlab, una società proprio specializzata in questo tipo di raccolta dati e di analisi dei dati geografici. Allora, l'automobile nello specifico è dotata di una videocamera all'alta risoluzione e due laser scanner che consentono di acquisire delle informazioni tecnicamente LIDAR, una nuvola di punti che in sostanza investe tutto ciò che durante il percorso dell'auto viene catturato e ci consente di acquisire delle informazioni di altissima accuratezza, ovvero in sostanza una ricostruzione tridimensionale del territorio rilevato rispetto alla quale poi sta alle varie opportunità che vengono colte acquisire dati che possono essere informazioni della pubblica illuminazione piuttosto che segnaletica, piuttosto che numeri civici, aree del verde, quindi abbracciando vari ambiti che possono essere l'ambiente, la riqualificazione energetica, la gestione e manutenzione del catasto stradale e quant'altro. Mi fa degli esempi di cosa ci si può fare con questi dati? Quindi stiamo parlando di fotografie di strade, stiamo parlando di rilevazioni tridimensionali di strade, prevalentemente strade, perché stiamo parlando di un'automobile, sì, giusto? Sì, sì, sì. Sì, il mezzo chiaramente si occupa di un rilievo cinematico, quindi un rilievo veicolare, ed è principalmente effettuato percorrendo strade. Quindi tutto ciò che noi incontriamo lungo una strada può essere estratto. Possiamo parlare di un marciapiede, di un'area viabile, di uno stato di manutenzione della strada. Noi per esempio rileviamo addirittura i tombini, siamo in condizioni di capire se il manto e l'asfalto è in uno stato di efficienza. Rileviamo per esempio una cosa che in questo momento è particolarmente interessante, l'illuminazione pubblica, sulla quale poi gli enti locali fanno riqualificazione energetica, cioè adottano tutta una serie di strategie per risparmiare energia elettrica, in qualche modo ridurre per esempio la CO2 nell'aria, secondo quello che è il protocollo di Kyoto. Quindi ci sono delle dinamiche anche normative a livello europeo che impongono mai agli enti di razionalizzare la spesa. Accanto a questo c'è un altro ramo interessante che è: da un lato posso razionalizzare la spesa, dall'altro posso anche fare un recupero fiscale oggettivo, per esempio acquisendo delle misure e delle dimensioni che possono essere oggetto di tassazione, verificando se qualcuno ha pagato meno il tributo dovuto rispetto a un'area. Tipo? Ma tipo, non lo so, cartellonistica pubblicitaria, si paga sulla base della dimensione dell'insegna pubblicitaria. Noi percorrendo il territorio siamo in condizione di misurare correttamente l'area occupata da un'insegna pubblicitaria, piuttosto che un'area di parcheggio, lo vediamo molto tranquillamente, siamo in grado di capire esattamente la superficie dell'area e di verificare se c'è o meno occupazione del suolo pubblico, che è ovviamente oggetto a tassazione da parte dell'ente locale. Anche immagino l'abusivismo edilizio? Evidentemente, anche su questo. Chiaramente poi ci sono altre tecnologie, ma un primo elemento di indagine può essere dato anche su questo. Tenga presente che la videocamera è una videocamera ad alta risoluzione, quindi consente di verificare per esempio la presenza di fabbricati che potrebbero essere di impronta abusiva, raffrontati per esempio a immagini, a cartografie di tipo catastale. Ma molti di questi dati, i comuni, lei ci ha citato la pubblica amministrazione, sì, ma pubblica amministrazione in generale, le pubbliche amministrazioni non dovrebbero già averli? Allora, in buona sostanza sì, diciamo che noi ci orientiamo principalmente sugli enti locali che in questo momento non hanno fatto dei passaggi di informatizzazione che erano comunque onerosissimi nei tempi passati, oppure ci orientiamo su enti che hanno sì banche dati ma che possono essere datate e obsolete, quindi in qualche modo richiedono un ringiovanimento che può essere fatto ad esempio con un passaggio su strade, quindi con un raffronto tra la fase precedente e la fase attuale, capendo ciò che è differente, quindi sicuramente facendo una sorta di stratificazione, diciamo così, temporale, sì, oggi e ieri. Le faccio un'altra domanda su mettendo a confronto questo tipo di dato che voi raccogliete con altri dati che sono disponibili anche online. Ci sono dei sistemi di mappe online che sono gratuiti, che tutti i cittadini possono consultare, quindi che ne so, l'abusivismo edilizio, comunque dove sono i pali della luce, io potrei vederli anche andando su questi sistemi. Qual è la differenza? Allora, la differenza principale è che la natura del dato. Noi ragioniamo intanto con un sistema di alta accuratezza, quindi di precisione. Se il palo lo posizioniamo in quel punto possiamo sbagliare di qualche centimetro, ma è l'esatto punto. Quindi se dobbiamo fare delle analisi dimensionali, i nostri sono dei dati certificati e qualificati. L'altro aspetto è che molto spesso questi server, chiamiamoli generalisti, introducono informazioni tout court, quindi da chiunque, da parte di chiunque, e oggettivamente chi deve fare delle analisi dimensionali specifiche, perché poi sono oggetto di razionalizzazione della spesa, spesso non si fida di questo tipo di informazioni. La natura delle nostre informazioni invece è verificata e collaudata in più passaggi e pertanto può consentire sicuramente di avere dei dati dimensionali corposi per animare qualsiasi decisione ad alto livello, strategica anche in più delle volte. Beh, chi l'avrebbe mai detto che mandando in giro un'automobile con una fotocamera, una videocamera con sensori laser, io poi possa far pagare tasse a chi magari non le ha pagate, recupero fiscale. Poi si possono fare molte altre cose. Questi dati poi, come abbiamo detto, possono essere messi su una mappa. Naturalmente non parliamo di mappe statiche, ma parliamo di mappe che cambiano, che grazie a opportuni software mi danno tanti tipi di informazioni, posso fare dei confronti, posso vedere come cambia, che ne so, la popolazione su un territorio, come anche posso mettere dei dati fiscali sopra ad una mappa per fare tantissime analisi, ma anche in questo caso la fantasia e la creatività degli operatori e delle aziende che utilizzano queste tecnologie batte qualsiasi ipotesi che io possa fare. Allora, abbiamo parlato delle tecnologie geografiche con Michele Ieradi, che è direttore tecnico di ESRI Italia, per capire come possono essere utilizzate, per fare che cosa queste tecnologie. Le tecnologie geografiche sono chiaramente alla base di qualsiasi applicazione che insista sul territorio, quindi dalla navigazione alla gestione del territorio, alla gestione delle utility, e di conseguenza è una tematica completamente trasversale per qualsiasi attività che abbia una qualche relazione col territorio. Facciamo un esempio prendendo come punto di riferimento Google Maps, che è sicuramente un'applicazione molto utilizzata. Che cosa fa di più la vostra tecnologia? Prima di tutto è indirizzato agli utenti finali, quindi non è un sistema enterprise. Di conseguenza, come dire, la piattaforma ESRI permette di fare quello che è possibile fare con Google Map all'interno delle organizzazioni, quindi la possibilità di mettere i propri dati, i dati delle proprie organizzazioni su una piattaforma complessa, renderli disponibili per tutti gli utenti su qualsiasi device. E chiaramente fare una cosa che è chiaro, diciamo, Google Map non deve fare perché non serve, l'analisi spaziale, cioè quindi confrontare informazioni diverse tra di loro per creare conoscenza, valore aggiunto, informazioni di sintesi che permettono a chi deve prendere decisioni di avere le informazioni necessarie per prendere decisioni. La crescita del mercato esiste, quindi le aziende comprendono che cosa si può fare di più con le mappe rispetto a utilizzo, che ne so, di database, di informazioni varie. È un mercato in espansione, è un mercato che sta crescendo nonostante la decrescita generale del mercato IT. Il mercato del location analytics è un mercato in forte espansione in Italia come in altri luoghi. Perché? Perché permette di risparmiare, cioè sostanzialmente l'ottimizzazione dell'uso delle risorse del territorio permettono alle aziende di risparmiare in minor carburante, minore uso di carburante, minor uso di persone, migliore ottimizzazione dei propri processi lavorativi, e quindi risparmiando l'azienda investe, cioè è più, come dire, orientata ad investire su una tecnologia che gli permette poi di risparmiare. Quindi immaginate quante sono le aziende che hanno dati che in qualche modo sono legati al territorio. Beh, banalmente chi ha mezzi di trasporto in giro per le strade, chi ha flotte di veicoli, chi fa manutenzione sul territorio, chi ha clienti sul territorio. Beh, tutti questi dati possono essere integrati, analizzati, mescolati e visualizzandoli su una mappa e opportunamente analizzati dai software che esistono sul mercato, servono appunto per prendere delle decisioni strategiche per le aziende. Questo è un settore che sta sicuramente crescendo. C'è un concetto molto bello e che negli ultimi tempi ho sentito citare più di una volta, che si chiama location intelligence, l'intelligence fatta sulla base del luogo, delle mappe naturalmente e del territorio. Che cos'è? Alfredo Gatti, managing partner e fondatore di Next Value, ci ha spiegato che cos'è la location intelligence. Ma io la interpreto come la capacità di approcciare dei fenomeni o comunque delle richieste del business, della strategia di business, analizzando dati che sono inerenti e messi in relazione con l'aspetto geografico, quindi quella che si chiama la geospazialità. Da qui sono strumenti che permettono di fare della BI, Business Intelligence, quindi dell'analisi su dei dati. Assolutamente, analisi di dati che possono essere anche dati molto estesi e molto contribuiti da più sorgenti. È quindi una assolutamente una tecnologia e una practice che diventa molto pervasiva e molto interessante per gli aspetti del business, per risolvere quelle che sono delle domande. Possiamo fare degli esempi di che cosa significa poi nella pratica per un'azienda, per un'organizzazione, la location intelligence? Sì, certamente. Siamo come dire, abituati a vedere il GIS e quanto appare nelle mappe, o perché siamo fruitori di mappe, o perché tutta questa area di applicazione è confinata in utility, in aziende che fanno asset management di reti tecnologiche, che sono semplicemente, oppure per anni è andata avanti così, insomma. Oggi invece queste tecniche di analisi dei dati correlati all'aspetto geografico si utilizzano molto negli aspetti, per esempio, di canali di vendita, di aftermarket, di decisioni relative, per esempio, a dove pongo uno shop, dove posso mettere, se sono una banca o un'agenzia. Correlando questa decisione ovviamente tutti gli aspetti demografici di una certa regione, anziché alle capacità di spesa o di, se vuole, accumulo di denaro da parte di coloro che abitano in quella regione, o dati di questo genere. Questi dati sono ovviamente soggetti a regole di privacy, sono forniti più o meno in maniera trasparente da tante entità, quindi vanno anche qualificati, e hanno anche il pregio che possono essere, come dire, contribuiti dai singoli cittadini. Per questo anche tutta la problematica degli open data diventa una cosa importante. Se le pubbliche amministrazioni mettessero a disposizione veramente i dati che servono alla domanda, a chi fa business, io credo che le aziende sarebbero assolutamente disponibili a comprarli. Ecco, a proposito di dati e di generatori di dati, chi li genera questi dati? Hanno varia natura. A volte sono enti governativi che per loro missione devono fare questo, si pensi solo agli aspetti, non so, correlati col clima o anziché con gli aspetti demografici. Noi abbiamo un Istat che fa tutte queste cose. Normalmente sono dati anche che vengono generati dallo stesso business, quindi sono gli stessi sistemi delle aziende che li generano e se li procurano o li mettono a disposizione di loro clienti o di loro partner. Quindi ad esempio quanta gente entra in un negozio, se io ho una catena di negozi, quello è un dato che genero io. Assolutamente, sì. È un dato che so io, non solo, ma potrei anche capire quanto sono efficaci le mie campagne di marketing in funzione di misurare quelle che sono le reazioni sul social, per esempio, di chi è stato in contatto con la campagna o a chi è entrato in uno store per qualche motivo. Sì, poi c'è la grande componente delle persone che generano dati, quindi il crowdsourcing. Assolutamente. A volte le persone sono molto generose, io credo. Sono molto disponibili ad essere contributive, a volte non lo sanno, quindi vengono analizzate senza tanti mezzi termini le loro manifestazioni, passando probabilmente sopra anche certi aspetti che sarebbero più di privacy. Però al di là di questo, penso che come cittadini, come consumatori, eccetera, siamo tutti generosi, quindi possiamo in qualche maniera contribuire se abbiamo visibilità del sistema, se ci fidiamo del sistema, se c'è trasparenza, se è per uno step forward, un miglioramento della situazione. Ovviamente non li abbiamo citati tra i protagonisti, ma gli operatori di telefonia mobile hanno milioni, miliardi di dati relativi al posizionamento, al luogo, a molti luoghi, a milioni, miliardi di luoghi. Quindi sicuramente questi sono tra i protagonisti di questa evoluzione tecnologica di cui abbiamo parlato, in modo particolare della location intelligence, della location analytics. Molti dati vengono già oggi utilizzati, messi a disposizione in maniera anonima, rispettando le regole, per fare analisi di mercato, dati che sono degli operatori di telecomunicazioni che possono essere raccolti dalle reti, quindi vedono il movimento delle persone, ad esempio dove posiziona un negozio. Benissimo, l'operatore di telefonia mobile ti riesce a dire dove passa più gente in una città, ma insomma dati di questo genere ce ne sono tanti, si possono combinare proprio per fare analisi molto approfondite e molto sofisticate. E poi non abbiamo citato un altro aspetto, un'altra evoluzione, che è quello del real time, cioè tutti questi dati possono essere messi su mappe che magari fanno vedere l'evoluzione del dato in determinate fasce orarie, in alcuni intervalli di tempo, ma possono essere anche combinati con dati che vengono generati in tempo reale. Vabbè, un esempio facile è il traffico sulle strade, che è in tempo reale. Questi dati sono dati che sono generati molto spesso da SIM anonimizzate dei cellulari o di scatole nere delle macchine, e quelli sono dati in tempo reale visualizzati su una mappa. Però poi le aziende sono già oggi dotate di mille altri sensori. Se voi pensate ad esempio nel settore delle utility, tutto il tema delle smart grid, quello è un tema in cui ci sono o ci saranno milioni di sensori che in tempo reale mandano informazioni. Se queste informazioni possono essere visualizzate su una mappa, si può avere un'idea in tempo reale di quello che sta succedendo su un determinato territorio. È tutto per questa puntata, grazie come sempre per la vostra attenzione. Questa è la nostra versione podcast. Continuate anche a consigliare ai vostri amici, ai vostri parenti, ai politici, anche quelli locali, di ascoltare 2024. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ringrazio tutti i nostri ascoltatori che ci scrivono, non a tutti riesco a rispondere. Ringrazio in modo particolare quelli che ci hanno scritto raccontandoci come ci ascoltano in podcast, e devo annunciare a tutti che ho scoperto che ci sono alcuni, hanno scritto in quattro, però insomma, immagino che ce ne siano molti altri, che ci ascoltano mentre nuotano. Quindi magari tornatemi a scrivere, perché uno di questi ascoltatori mi ha detto: ma io ho un po' di problemi perché con le cuffiette che ho in dotazione c'è un po' di rumore mentre nuoto, ma a volte mi va un po' di acqua nelle cuffie. E posso capire, magari chiederemo a Gianfranco Giardina di consigliare un modello di cuffie proprio per i nuotatori. Comunque mandatemi informazioni, feedback, che così consigliamo ai nostri ascoltatori che vogliono nuotare con 2024 nelle orecchie il tipo di cuffia da ascoltare. Tra l'altro questo va molto bene perché andando verso l'estate molte persone potrebbero anche andare a fare una bella nuotata in mare mentre si ascoltano un pezzetto di puntata di 2024. Si potrebbe fare la gara nel tempo di 2024 quanto percorri, quindi potrebbe essere una gara interessante, e mettiamo in condivisione i risultati. Bene, ci fermiamo, mi fermo, ci risentiamo la prossima settimana. 2024. 2024. 2024. 31 seconds.